America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Meno 5, mancano 5 giorni di campagna elettorale, poi il voto. Il 6 novembre gli americani andranno alle urne. Devo dire, raramente mi ricordo di una campagna elettorale così avvincente come questa. È una campagna in cui le carte si sono ribaltate sul tavolo più volte, a partire dalle convention per poi arrivare ai dibattiti e finalmente adesso, in questi ultimi giorni, subito prima dell'uragano Sandy, con una manovra aggressiva di Barack Obama per recuperare il terreno perduto che lo aveva messo improvvisamente a svantaggio a meno di 2 settimane dalle elezioni, e poi l'uragano che sicuramente, lo possiamo dire con relativa certezza a questo punto, ha avvantaggiato Barack Obama. Ieri, dopo aver passato la giornata di martedì alla Casa Bianca per coordinare le operazioni con la protezione civile, ieri vi dicevo è arrivato con Air Force One in New Jersey, lo abbiamo visto scendere dalla scaletta col suo giubbotto marrone, è stato accolto dal governatore del New Jersey, il repubblicano Chris Christie, molto vicino a Romney, ma in questo caso affiancato al presidente. Sentiamolo. And so I discussed all those issues today with the president, and I'm pleased to report that he has sprung into action immediately to help get us those things while we were in the car riding together. So I want to thank him for that. Le parole di Chris Christie. Ho avuto una lunga conversazione oggi con il presidente, mi ha garantito il suo aiuto immediato, voglio ringraziarlo per questo. Ha seguito con me da vicino l'evolversi della situazione durante e dopo il passaggio di Sandy. Questa è la nostra sesta conversazione dallo scorso fine settimana, c'è stato un grande coordinamento, non posso ringraziare abbastanza il presidente per tutto quello che ha fatto. Quindi continua in questi suoi elogi Chris Christie. Pensate che qualcuno gli ha detto: ma pensa di invitare anche Mitt Romney, e Christie ha detto: ma no, cosa c'entra Mitt Romney? Assolutamente non c'è bisogno che venga da queste parti. Ecco, è una posizione questa di Christie che ha sorpreso, ha colpito. Barack Obama ne esce fuori molto bene perché riesce a recuperare quello spirito bipartisan che non era riuscito a conquistare nel dialogo con il Parlamento, che invece cercava di politicizzare, per esempio, il dibattito sul bilancio. E dunque un presidente che ne esce sicuramente bene. Sentiamo cosa ha detto ieri dal New Jersey al fianco di Chris Christie. Then you're reminded about what America is all about. You know, we go through tough times, but we bounce back because we look out for one another. And we don't leave anybody behind. Obama, passata la tempesta, cerca di mobilitare le truppe, cioè i suoi concittadini americani, e dice: quando succedono cose come queste ci viene ricordato di che pasta è fatta l'America, noi attraversiamo momenti difficili ma ci rialziamo più forti di prima, e la ragione di questo è che ci prendiamo cura gli uni degli altri e non lasciamo nessun altro indietro. Ecco, è con interventi come questi che il presidente raccoglie fra gli indecisi, fra gli incerti, fra coloro che hanno cambiato opinione 3-4 volte nel corso dell'ultimo mese, che il presidente può raccogliere nuovi consensi decisivi, perché ormai, beh, certo, può succedere di tutto, ma che negli ultimi 3-4 giorni ci sia a questo punto la sorpresa di novembre, perché le sorprese in genere sono sempre di ottobre, beh, devo dire, è molto improbabile. Sandy is another devastating hurricane by all accounts, and a lot of people are going to be facing some real tough times as a result of Sandy's fury. And so if you have the capacity to make a donation to American Red Cross, you can go online and do that. Mitt Romney, beh, il povero Mitt Romney è stato ignorato quasi completamente dalle reti televisive americane, che si sono concentrate su queste apparizioni in diretta del presidente Barack Obama, e devo dire, non c'è niente di meglio che fare campagna elettorale da presidente impegnato in quello che è il suo ruolo di difensore dei deboli, difensore dell'interesse nazionale. E Romney ha ripreso invece la campagna normale, è andato in Florida, ha fatto 3 eventi. La Florida, ricordiamolo, è uno stato chiave, ci sono 29 voti elettorali. Mitt Romney era riuscito a portarsi in vantaggio, a questo punto il suo vantaggio si è assottigliato un po', dunque anche la Florida torna improvvisamente in gioco. Però, visto che la psiche del paese è ancora legata al post Sandy, lo slogan del candidato repubblicano, che in quest'ultima settimana doveva essere Real Change on Day One, quindi porterò il cambiamento che vi ho promesso a partire dal primo giorno, è stato spostato, devo dire con prudenza e saggezza, verso le sfide dell'uragano, del pronto intervento e della solidarietà. America 24. Bene, attorno alla campagna elettorale naturalmente non si discute d'altro se non di sondaggi. Gli ultimissimi sondaggi li abbiamo avuti ieri dalla United Technologies National Journal con Princeton. Ebbene, da un punto di vista nazionale, Barack Obama sembrerebbe essere in vantaggio di 5 punti al 50% contro il 45% di Mitt Romney. Questi sono sondaggi rilevati prima dell'uragano Sandy. Ecco, non è possibile appoggiarsi a un sondaggio individuale, noi preferiamo darvi le medie, ci sono medie di numerosi sondaggi e nelle medie in realtà Mitt Romney resta ancora in vantaggio sul voto popolare dello 0,2%, ma prima aveva addirittura l'1%. Barack Obama è riuscito a recuperare terreno anche in Ohio, a questo punto il suo vantaggio è intorno ai 2 punti ed è intorno ai 3-4 punti di nuovo in Iowa e in Wisconsin, altri 2 stati chiave. Cosa sta facendo Mitt Romney? Sta cercando di entrare in degli stati che sono sicuramente democratici, come il Minnesota, come la Pennsylvania. Perché? Beh, i suoi strateghi hanno spiegato che lui vuole cercare di conquistare 300 grandi voti elettorali, non soltanto 270. E siccome il vantaggio di Obama in quegli stati è forse del 3-4%, dal punto di vista statistico restano vantaggi del tutto aleatori e dunque ritengono di potercela ancora fare. Dunque un attacco a tutto campo. La mia impressione è che Mitt Romney voglia invece cercare di conquistare il voto popolare. In questo modo potrebbe uscirne a testa alta. È vero, ha perso le elezioni perché Barack Obama è riuscito ad imporsi negli stati chiave, ma dal punto di vista del voto popolare nazionale, beh, se la maggioranza è sua, sicuramente si tratterebbe di una sconfitta molto onorevole. A storm like this that's so strong and so unusual, a global warming incident. I think what is clear is the climate's changing. Nobody knows whether it's a secular or secular thing. Infine chiudiamo con Bloomberg, che continua a apparire, il sindaco di New York, in televisione per rassicurare una città che devo dire alquanto spaventata, soprattutto nella zona meridionale dove non c'è luce, non c'è acqua, ormai sono 2 o 3 giorni che si vive in una condizione molto difficile. Si devono salire magari 10-15 piani a piedi, ci sono addirittura dei grattacieli di 30-35 piani, pensate, e molte di queste persone se ne sono andate, hanno cercato un posto da un'altra parte. Ma le parole che vi ho fatto sentire sono secondo me molto importanti, perché il sindaco dice: una tempesta come questa, con questa potenza così inusuale, ci deve in qualche modo far venire in mente delle domande. Non so, dice, se si tratta di un evento climatico legato al riscaldamento globale o a che cosa, ma quello che è chiaro è che il clima sta cambiando e nessuno sa bene se questa è una trasformazione ciclica o secolare. Beh, un'osservazione, vi ripeto, secondo me molto importante, anche perché di clima e di cambiamento climatico in queste elezioni presidenziali praticamente non se ne è parlato. È un tema molto forte, spero di poterlo affrontare nei prossimi giorni, anche per ragionare su quel che sta capitando attorno al mondo, anche da noi, dove all'improvviso ci troviamo in Italia, nel clima mediterraneo, ad avere delle tempeste di stampo tropicale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica, che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vendite record per Taylor Swift. Il suo ultimo disco, Red, che è uscito il 22 ottobre, ha venduto 1,2 milioni di copie, numero uno della classifica di iTunes, appena, pensate, 36 minuti dopo il suo inserimento nel negozio digitale. Taylor Swift, Red. Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani, goodbye and get going!